e ciriddi che parevano beddi come angileggi scinnuti al loro lura do cielo, si erano stracangiati in uomini anziani, sdentati, malatizi, senza capiti, e femmine che erano state la luce del paese, ora erano vecchiaredde che potevano mettersi a fare la quasetta. Poi, appresso, si era scoperto che tutto suo mutuperio in realtà aveva uno scopo preciso. Tutto il materiale doveva servire come traccia a una truppa televisiva che sarebbe venuta in paese per fare quella che oggi si chiama una fiction. Anche per oggi è tutto, grazie in regia Gianmarco Ferronato. Vi ricordo che per luglio e agosto gli appuntamenti con il Cacciatore di Libri si moltiplicano. Va in onda come sempre il sabato alle 6.30 e alle 22, ma anche la domenica con una puntata diversa alle 16.15 e alle 20.45. In qualunque caso, se non volete perdervi neanche una puntata, potete andare su radio24.it, cliccare nella sezione Il Cacciatore di Libri e trovare così tutte le puntate di archivio. Una buona lettura da Alessandra Tedesco.